Perfetta notte, le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Un'Italia in subbuglio, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, un'Italia che protesta, è tutta l'Italia, già ne abbiamo parlato molto in questi giorni, siamo al quarto giorno di proteste, di manifestazioni, un po' in tutto il paese, dal nord al sud. E voi che cosa avete capito di questa protesta o dei forconi del Movimento 9 dicembre? Perché sono talmente tante anime in questo movimento che è difficile definirli, qualcuno poi si arrabbia se si chiama 9 dicembre, qualcuno se sono forconi, comunque sono tante categorie, vedete c'è un forte disagio generalizzato. Voi che cosa avete capito di questo movimento? Questo vi chiedo. Intanto si sono creati oggi invece sulla scena politica degli assi inediti tra partiti e schieramenti, cioè che prima si guardavano diciamo un po' in cagnesco, poi ne parleremo, e ci sono stati anche i primi segnali di accelerata sulla legge elettorale. Ma vi do subito una buona notizia: è stato liberato il tecnico italiano rapito in Nigeria. La notizia trova conferma alla Farnesina, quindi al Ministero degli Esteri, Marcello Rizzo, che è stato liberato. Ma andiamo anche, come sapete, poi agli altri titoli, a ricostruire la giornata, come sapete, nella prima parte, e poi dopo con i vari ospiti e i vari argomenti. La legge elettorale, la discussione, l'iter della riforma passa alla Camera, intesa tra PD e Movimento 5 Stelle. Boldrini e Grasso, i presidenti delle Camere, sottolineano: vigileremo sulle riforme. Manovra, la legge di stabilità va avanti, stop ai contanti per gli affitti, convergenza tra Movimento 5 Stelle e Forza Italia. Protesta antigoverno alla Sapienza, il presidente del Consiglio Letta commenta: gli attacchi alla politica sono attacchi alla rappresentanza. Forconi, oggi ancora manifestazioni, proteste come dicevo da nord a sud, a Ventimiglia bloccati gli accessi per la Francia. E calcio, parleremo di Europa League, stasera gioca la Lazio. Partiamo quindi allora da questa legge elettorale. Vi dicevo, ci sono primi segnali di accelerata sulla riforma della legge. In Commissione Affari Costituzionali al Senato una maggioranza anomala formata dal PD, dal Movimento 5 Stelle e da SEL ha detto sì allo spostamento della legge elettorale dal Senato alla Camera. Contro il rinvio si sono espressi tutti gli altri gruppi e i presidenti delle Camere Boldrini e Grasso hanno annunciato in serata il passaggio quindi dell'iter della legge dal Senato alla Camera e annunciano che vigileranno sulle riforme. E dalla legge elettorale alla legge di stabilità, la manovra che passa alla Camera e continua nel suo percorso verso l'approvazione finale. La novità di giornata è anche qui un asse inedito, la convergenza in questo caso tra Forza Italia e Movimento 5 Stelle su alcuni emendamenti al testo licenziato dal Senato. Nel frattempo in Commissione Bilancio entrano nel testo da sottoporre al voto dell'Aula nuove disposizioni e correttivi su pensioni, spese militari, rientro dei capitali depositati all'estero, affitti, ma di questo parleremo più diffusamente più tardi. Passiamo alle proteste. Tagli alla scuola e disoccupazione sono i temi al centro della manifestazione degli universitari all'Università Sapienza di Roma. Uova e sassi contro le forze dell'ordine, due persone fermate e subito rilasciate. Questo è il bilancio della mattinata. Una manifestazione organizzata da studenti e Rete Action che aveva come obiettivi il capo dello Stato Enrico Letta. L'università è di chi la vive e non di chi la distrugge. Questo uno degli slogan degli studenti che hanno manifestato alla Sapienza. La città universitaria è stata al centro di una mattinata ad alta tensione tra manifestanti di Action e centri sociali che hanno lanciato uova e sassi contro le forze dell'ordine. Nel mirino degli studenti Giorgio Napolitano ed Enrico Letta, che erano attesi come ospiti alla conferenza nazionale sull'ambiente. La tensione è subito salita quando la polizia, in assetto antisommossa, ha risposto con una mini carica ai manifestanti che stavano cercando di entrare nel rettorato. Il rettore Frati ha minimizzato l'accaduto, ma sono state fermate due persone subito rilasciate. Hanno fermato due studenti di questa università. Noi non ce ne andiamo finché non ce li restituiscono. Vergognatevi! Subito dopo essere stati dispersi, i manifestanti hanno cominciato a girare intorno alla sede dell'università dove si teneva la conferenza fino all'ora di pranzo, per poi posizionarsi lungo le transenne e attendere così la fine dei lavori. Leonardo Rossi, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E da queste manifestazioni all'università la protesta dei cosiddetti forconi a Ventimiglia, sono stati bloccati gli accessi verso la Francia e il Piemonte. I manifestanti presidiano il ponte sul fiume Roia che porta oltralpe, il cavalcavia di Roverino che conduce alla statale 20, all'autostrada 10. Già in mattinata a Ventimiglia era stato attuato un blocco smantellato dalla polizia che ha usato i lacrimogeni, poi tensione e traffico in tilt anche a Torino, preside problemi alla circolazione in diverse regioni. A Cinzia Franchini, presidente di CNA FITA, che era gruppo occupa quasi un terzo degli autotrasportatori, tutti estranei alla protesta, è stata recapitata a lei una lettera con minacce di morte firmata "Viva la mafia, viva i forconi". In mattinata il Presidente del Consiglio Letta all'Assemblea Nazionale degli Artigiani aveva avvertito: si sta attaccando la rappresentanza. Gli attacchi alla politica, in generale attacchi alla rappresentanza, e quello che è successo nel campo dell'autotrasporto tocca il tema della rappresentanza, perché se salta il meccanismo per il quale le istituzioni trattano e discutono con i legittimi rappresentanti, esiste un principio di democrazia elementare. E oggi il ministro dell'Interno Angelino Alfano sulla protesta ha riferito alla Camera presentando un primo bilancio: 14 feriti tra le forze dell'ordine, 5 persone arrestate e denunciate altre 55. Il ministro ha parlato di deriva ribellistica e di infiltrazioni di estrema destra. Vi è stato anche un fronte violento, per cui noi comprendiamo il disagio sociale, al tempo stesso intendiamo difendere la libertà dei cittadini italiani di vivere in sicurezza nella loro città. E vi ricordo quindi, se volete dire la vostra opinione su cosa avete capito, avete dedotto da queste manifestazioni di questi giorni, da questo movimento, ci sono due canali per le vostre opinioni: il 349-238-6666, che è il numero per i messaggi, e poi c'è sempre la pagina Facebook di Effetto Note, la riconoscete perché è Effetto Note trattino Roberta Giordano. Passiamo alla cronaca, si chiama Inganno, l'operazione dell'antimafia di Reggio Calabria che ha portato in carcere 6 persone, tra loro c'è anche una donna che si propone come paladina antimafia che, se qualcuno lo ricorderà, era stata, oltre che in vari programmi anche televisivi, era stata qualche tempo fa, 3 mesi fa mi sembra, proprio qui a Effetto Notte. L'impegno per la legalità per lei era solo un'onda da cavalcare, una favoletta, per dirla con le sue stesse parole, che è stata smascherata dalle accuse di truffa e peculato. Si infrange su una lunga lista di spese personali pagate coi soldi dell'antimafia anche l'icona che Rosy Canale si era costruita creando il movimento delle donne di San Luca e con esso la sua notorietà che da un libro al teatro, passando per il premio Borsellino, puntava al seggio parlamentare. Nel nome dell'aiuto da portare nel paese simbolo di una delle più aspre faide di 'Ndrangheta, aveva raccolto fondi dal Ministero della Giustizia, dalla Presidenza del Consiglio regionale, da Enel Cuore, ma quei soldi sono stati usati per la settimana bianca, per scarpe, per mobili Ikea e pure per una Fiat 500. La ludoteca per me è uno specchietto delle allodole pazzesco, confida in una conversazione a proposito del progetto avviato in un bene confiscato. Qui voleva portare i bambini di San Luca, qui prometteva di creare lavoro per le donne con telai e saponi artigianali prodotti invece altrove. E mentre si lamenta di non riuscire a pagare le bollette o le stesse lavoratrici, chiama invece la figlia per chiederle di che colore volesse le Hogan, perché sono arrivati i soldi, racconta, e la figlia ordina allora pure una borsa Vuitton. Stai facendo di tutto per sistemarti la vita, a spese degli altri però, le rinfacciano suoi collaboratori, quando ormai il paravento stava cadendo e la favoletta della dichiarata paladina antimafia stava per essere smascherata. Raffaella Calandra, Radio 24, Sole 24 Ore. E oggi è stato celebrato il 44esimo anniversario della strage di Piazza Fontana a Milano, ricordando quel 12 dicembre 1969 in cui morirono 17 persone, 88 rimasero ferite, di cui molti molto gravemente. Il sindaco di Milano, Giuseppe Giuliano Pisapia, ha detto: fu un disegno eversivo che colpì Milano e tutta l'Italia, fu un duro attacco alla democrazia, ma questo non impedì a tutti noi di rialzarci, di tornare a guardare verso il futuro con consapevolezza e speranza. E passiamo all'estero, c'è alta tensione tra il governo spagnolo e il governo regionale catalano dopo l'annuncio del giorno del referendum per l'indipendenza di Barcellona. Vol que Catalunya esdevingui un estat? 9 novembre 2014, l'atteso referendum per l'indipendenza della Catalunya dalla Spagna ha ora una data. Ad annunciarlo il presidente della Generalitat catalana Artur Mas, che compie così un passo in più, il più rischioso politicamente, sulla strada verso il possibile distacco di Barcellona da Madrid. Il referendum consterà di una semplice domanda: vuole che la Catalunya sia uno Stato? In caso affermativo, l'elettore potrà rispondere a un secondo quesito: questo Stato dovrà essere indipendente? L'annuncio di Mas è arrivato al termine di una lunga riunione tra i partiti che appoggiano il referendum indipendentista, la maggioranza nel Parlamento autonomico catalano. Durissima la reazione da Madrid, sia il governo di centrodestra sia i socialisti all'opposizione hanno garantito che il referendum non si terrà. E mentre i sondaggi segnalano una leggera maggioranza a favore degli indipendentisti, 46% contro il 42%, si profilano mesi di altissima tensione politica sull'asse Madrid-Barcellona. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Torneranno in Italia i primi 4 tifosi laziali fermati in Polonia, l'ha detto la ministra degli Esteri Bonino. L'incubo era iniziato il pomeriggio del 28 novembre durante la trasferta della Lazio a Varsavia per una partita di Europa League. 22 tifosi biancocelesti erano stati fermati dalla polizia per le violenze avvenute a poche ore dal match. Da allora le richieste di estradizione del nostro paese sono rimaste inascoltate e nemmeno il presidente del Consiglio Enrico Letta in visita a Varsavia era riuscito nell'impresa, dovendo anzi incassare le dichiarazioni del ministro degli Esteri polacco che aveva parlato non di tifosi ma di banditi a proposito dei 22 italiani reclusi. Ora il giudice polacco ha finalmente accolto il patteggiamento dei primi 4 dei 12 che sono ancora in attesa di giudizio. Nelle prossime ore toccherà ad altri 4 e poi martedì prossimo ad altri 4 ancora lasciare il carcere di Bialoleka. Per tutti la condanna è 2 anni con la condizionale, più 3 anni di DASPO in Europa e 500 euro di multa. La trasferta forzata continua invece per gli altri 10 ultralaziali già condannati. Cercheranno di avere presto gli arresti domiciliari a Varsavia. Alessio Maurizi, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E parliamo anche della morte di Angelo Rizzoli, che si è spento a 70 anni. L'ex editore, produttore cinematografico coinvolto in numerose vicende giudiziarie, era gravemente malato da tempo. Dal febbraio scorso era agli arresti domiciliari con una nuova accusa di bancarotta fraudolenta. I funerali si svolgeranno domani alle 11 nella Basilica di Sant'Eugenio a Roma e per la sua detenzione oggi è scoppiata anche la polemica politica. La musica, questa sera gran finale per la 7ª edizione di X Factor, 8.000 spettatori ci sono al forum di Assago per applaudire i 4 finalisti e i super ospiti. Seguire i propri idoli ovunque, aspettare ore ed ore e sperare in un autografo, in una foto insieme. Ma va bene anche guardarli da lontano, ci si accontenta di un saluto dalla finestra e quando accade l'urlo è assordante. I fan dei One Direction sono soprattutto ragazze e adolescenti dai 9 ai 16 anni che oggi, pur di esaudire il loro desiderio, hanno scelto di non andare a scuola, in qualche caso di fare ore di treno per esserci a tutti i costi dalle prime ore del mattino e sono state accontentate da molti genitori. Vuol dire sopportare sia One Direction che lei. Lei ha dovuto prendere ferie? Mezzogiornata di ferie, sì. Siamo partite alle 8 da Venezia. C'è occupazione fortunatamente a scuola nostra oggi. Stasera i 5 ragazzi anglo-irlandesi che devono il loro successo all'edizione inglese di X Factor di 3 anni fa si esibiranno proprio sul palco della finale del Talent TV in onda su Sky che incoronerà un altro vincitore. Stefano Totoro, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E per concludere questa prima parte, il calcio con l'Europa League che sembra un po' la Champions dopo l'arrivo ieri di Napoli e Juventus che sono state scartate, eliminate diciamo appunto dalla Champions. Oggi Fiorentina-Dnipro è finita 2-1 per la Fiorentina e poi da poco sta giocando il Lazio contro il Trabzonspor e pare che al momento, se non sbaglio, dovrebbero essere ancora 0-0. Poi comunque vi aggiornerò man mano. Intanto leggo alcuni dei vostri messaggi su quanto avete compreso di questo movimento dei forconi il 9 dicembre, che dir si voglia. Dice Tina, facile strumentalizzare, ma se non si cambia rotta in strada scenderanno anche le sessantenni come me, dice. Basta con i forconi, altrimenti le rime si sprecano, scrive Francesco da Torino. E invece un altro ascoltatore, Franco, dice ma non sarà che state dando troppa importanza a questi torbidi giustizialisti da curva? E mentre i forconi disturbati bloccano Milano da 3 giorni, dei giovani che commemorano la strage di Piazza Fontana volevano bloccarli per poco in centro sono stati caricati senza indugi. E saluto Stefano Folli. Ciao Stefano. Ciao. Editorialista del Sole 24 Ore. E poi ci sono anche in collegamento il senatore di Forza Italia Lucio Malan. Benvenuto, bentornato Malan. Malan, mi sente? Io la sento. Benissimo, pronto? Benissimo. Sì, ci siamo. E poi c'è la deputata del Movimento 5 Stelle, Carla Ruocco. Buonasera. Buonasera, Ruocco. Buonasera a tutti. Allora, io comincerei da Stefano Folli, dalla sua analisi, poi naturalmente parleremo invece direttamente con i politici. Stefano, dicevamo che si sono create oggi, così a volte sembra di guardare la politica italiana, specie in questo periodo, attraverso un caleidoscopio, no? Quando cambiano le composizioni, quando infili l'occhio dentro e giri. Questa la manovra, la legge di stabilità, che ha creato, diciamo così, questo asse oggi tra Forza Italia e 5 Stelle, perché Forza Italia ha votato per la prima volta un emendamento di 5 Stelle, anche se poi è stato respinto. Mentre questa mattina c'è stata un'intesa temporanea tra il PD e il Movimento 5 Stelle sulla legge elettorale. Quindi sembra che la riforma legge elettorale, soprattutto, Stefano, abbia già mandato un po' in crisi i rapporti di maggioranza? No, non credo, così come non credo che ci sia un asse fra Forza Italia e i 5 Stelle, è che in Parlamento capitano di queste convergenze, si sono verificate in passato, normale, si verificano ancora oggi, ma normale fino a un certo punto, nel senso che oggi viviamo una condizione di particolare difficoltà e le convergenze tra le opposizioni comunque hanno un significato, soprattutto quando riguardano un partito come i 5 Stelle, che è entrato in Parlamento su una forte carica antisistema, diciamo, e il partito di un uomo, Berlusconi, che è stato un personaggio molto significativo degli ultimi 20 anni della nostra storia ed è stato più volte Presidente del Consiglio. Quindi questa convergenza tra un ex Presidente del Consiglio e un movimento antisistema fa notizia, però ripeto, sono anche fatti che capitano nella dialettica parlamentare. Io mi preoccuperei di più di un eventuale legame, connessione che si può stabilire fra il movimento di piazza, quel cosiddetto movimento di Forconi, che porta con sé delle istanze anche profondamente intolleranti e financo eversive, e pezzi, diciamo, dell'opposizione parlamentare, che invece a mio avviso deve seguire un percorso più costituzionalmente corretto. Ecco, quelle sono le collusioni che mi sembrerebbero più preoccupanti. Ma che a te sembra che ci possano essere, che ci siano? Beh, insomma, qualcosa c'è naturalmente. Ha fatto bene, secondo me, Berlusconi a evitare l'incontro con i capi di questi personaggi, di questo movimento, però che ci siano degli avvicinamenti e financo delle collusioni, questo è le cronache ce lo dicono, e secondo me è preoccupante, perché io giudico con una certa inquietudine questo movimento che sta bloccando le varie città italiane. Tra l'altro, poi dopo ne parliamo, ma ti volevo chiedere, Emiliano, oggi il sindaco di Bari, ha detto che i Forconi sono ispirati, ha detto proprio così, dal pregiudicato Berlusconi e da Grillo. È stata un'esagerazione. No, questo francamente mi sembra un'esagerazione. Come dico, alcuni... Come se si creasse un altro asse, creare, ma adesso se gli assi se si crea un asse di questo genere, io sarei il primo a esprimere una grande inquietudine. Per adesso ci sono alcuni avvicinamenti, c'è una condizione generale difficile del paese che può portare dei movimenti ispirati a una forte demagogia come quella dei Forconi e delle forze politiche che si ispirano anch'esse a un certo grado di populismo a trovare delle convergenze. Ecco perché credo che convenga alle forze rappresentate in Parlamento, a cominciare anche dalle forze che vogliono essere innovative come 5 Stelle, di invece darsi una definizione più schiettamente costituzionale e distinguere bene i piani. Allora, quindi chiamiamoli direttamente in causa, Lucio Malan, senatore Malan, lei perché, intanto di che emendamento si tratta e perché l'avete votato voi di Forza Italia in accordo col Movimento 5 Stelle? Sì, è un emendamento presentato alla Camera, se n'era discusso parecchio anche al Senato. È stato un emendamento alla Camera presentato dal Movimento 5 Stelle, ma poiché era un progetto che avevamo appoggiato, che era tra l'altro partiva dal Ministero della Salute, abbiamo votato perché ritenevamo che fosse una buona cosa lo screening antitumorale su in area a particolare rischio come Taranto, dove si è molto parlato del problema della incidenza particolare di tumori, e la Terra dei Fuochi e altre zone simili, e ci sembra un progetto interessante e l'abbiamo votato. Purtroppo non è passato, ma insomma non è un avvenimento così eccezionale, cioè in Parlamento dovrebbe essere normale persino per i deputati e senatori della maggioranza che quando c'è qualcosa di sensato dell'opposizione lo si vota, siamo d'accordo che c'è un vincolo di maggioranza per cui si tende a votare i propri, però non dovrebbe essere un irregimentamento tale che si vota solo sulla base della firma l'emendamento e non sulla base di quello che c'è scritto dentro. La pensa ugualmente Carla Ruocco, quindi, per cui anche voi avete votato insieme a Forza Italia per questo? Guardi, Forza Italia ha votato un nostro emendamento, tanto per iniziare. Noi siamo l'unica opposizione all'interno del Parlamento, perché Forza Italia fino a ieri era con Letta, poi in seguito al, ovviamente alla problematica di Berlusconi ha ben pensato di passare all'opposizione, onde poi eventualmente riaccarezzare l'idea di presentarsi al, di non dinanzi agli elettori di nuovo con i vecchi amici. Per cui noi facciamo un discorso e un dialogo completamente diverso, basato sui temi, sottolineo, che sono cari ai cittadini, perché noi siamo i cittadini che sono entrati in Parlamento, ed è per questo motivo che, come lei giustamente ha riportato, il suo giornale, giustamente il suo spazio informativo giustamente ha riportato, siamo stati in accordo tra virgolette con il PD sul singolo tema della legge elettorale, siamo stati poi seguiti da Forza Italia sul discorso dello screening, perché noi siamo un movimento che si basa su temi concreti, nulla di più vicino ai cittadini che sentono l'esigenza di essere ascoltati dalla politica. Questa è una fortissima esigenza che il Movimento 5 Stelle raccoglie. Quindi questo è il motivo per cui poi incidentalmente ovviamente raccoglie anche i consensi degli altri gruppi, come d'altronde sottolineo anche il Movimento 5 Stelle sui singoli temi appoggia un emendamento piuttosto che un altro, assolutamente, questo è da sottolineare. Quindi Carla Ruocco, non è un'incongruenza rispetto a quello che voi rappresentate in Parlamento, l'opposizione, ma come avete detto all'inizio quando siete nel Parlamento, sì, vi basate sui temi, quando vi trovate d'accordo su un tema, quindi un emendamento, una norma, una legge eccetera, la potete votare anche con gli altri, anche se diciamo siete conosciuti per un'opposizione, un ostruzionismo piuttosto rigido. Uno ostruzionismo rigido nei confronti di questo, di un sistema che ha inquinato a tal punto il paese da far trovare una situazione di finanza pubblica così disastrata. Su certe cose bisogna essere molto chiari, però poi nel momento in cui qualcuno propone una posizione di buon senso non ci sono pregiudiziali di alcun tipo, e questo deve essere assolutamente messo in evidenza. Quindi non siamo il popolo del no, ma siamo il popolo delle proposte concrete. Chi vuole seguirci ci segue, chi ne fa una buona proposta viene preso in considerazione ed appoggiato, questo è tutto. Capito Stefano Folli? Quindi è una questione appunto di convergenze sui temi, come avevano effettivamente annunciato già all'ingresso in Parlamento, no? Ma se è così, naturalmente, ripeto, non è che possiamo fare l'analisi di ogni convergenza parlamentare, di ogni emendamento che viene condiviso, perché questo è sempre avvenuto nel Parlamento, è la dialettica parlamentare che porta a questo, addirittura sarebbe perfino positivo, sono d'accordo con il senatore Malan, che avvenisse anche più spesso. Il problema, come dicevo, è che queste dichiarazioni di buon senso e di buona volontà che sono diciamo quelle che dovrebbero alimentare il dibattito parlamentare, poi talvolta sono contraddette da comportamenti che non sono in sintonia con quello che viene dichiarato. E, ripeto, la preoccupazione vera riguarda la connessione con quello che succede fuori dal Parlamento. Non perché sì, non ci si debba connettere con i movimenti di piazza, con le manifestazioni, è che queste manifestazioni in questo caso specifico portano con sé una forte carica antiparlamentare, una forte carica anche antidemocratica in alcuni aspetti, in alcune ispirazioni, e questo deve preoccupare. Ma Lana ha sentito, perché ieri Berlusconi ha detto che doveva incontrarsi, poi ha evitato di farlo con gli autotrasportatori, con i manifestanti, no? E quindi, come diceva Stefano Folli, c'è il rischio che ci siano delle connessioni. Voi siete connessi con questo movimento, Malan? Ma guardi, io credo che queste manifestazioni sono sicuramente non condivisibili e da condannare, dove diventano violente, dove si minacciano negozianti perché chiudano, dove si danneggia l'attività dei cittadini che vogliono andare a lavorare, vogliono andare a scuola, devono andare a curarsi in un ospedale bloccando, e se le si impedisce di farlo bloccando mezzi di comunicazione, ferrovie, strade e così via. Ma origina perlomeno in parte da istanze giuste, da persone che non avrebbero mai pensato di fare neppure una manifestazione, figurarsi una manifestazione con magari degli accessi, con degli eccessi, che però si trovano in situazioni terribili. Noi sappiamo che ci sono delle aziende che falliscono perché magari non ricevono un pagamento dalla pubblica amministrazione, che in compenso vengono massacrati da ingiunzioni di pagamento, sequestri, magari addirittura di mezzi di produzione da parte di Equitalia e dell'Agenzia delle Entrate, e non possiamo far finta che questo non esista. Certamente bisogna auspicare che le proteste vengano fatte senza danneggiare gli altri cittadini, ma siccome ci sono delle questioni vere, reali, figuriamoci se un piccolo imprenditore si sognerebbe mai di lasciare il suo lavoro per mettersi a manifestare, a occupare una rotonda di una strada, se non avesse delle ragioni molto pesanti. Queste ragioni vanno ascoltate. Naturalmente va anche chiesto a queste persone di rispettare gli altri, perché sono altre persone a loro volta che cercano di guadagnare. A questo proposito, Carla Ruocco, a proposito di quello che aveva scritto Beppe Grillo, no, in questi giorni, la lettera ai poliziotti dicendo di non appoggiare più i politici, ma di mettersi dalla parte del popolo. Poi dopo, il giorno dopo, adesso non ricordo quale vostro parlamentare, ha un po' ammorbidito la posizione dicendo no, i poliziotti facciano il loro dovere, devono essere fedeli alla Repubblica, eccetera, però cerchiamo anche di ascoltare. Qual è la vostra posizione adesso? Allora, io voglio essere molto chiara: noi siamo contro qualunque forma di violenza, anzi noi convogliamo in un movimento democratico che sta rispettando tutte le regole in Parlamento, convogliamo proprio il disagio di tanta gente che purtroppo, come diceva anche il deputato Malan, il senatore Malan, in questo momento ovviamente si trova a fallire, si trova in gravissimo stato di disagio. Quindi noi siamo vicini a queste persone e cerchiamo in maniera democratica di portare dentro il Parlamento le loro istanze, però non bisogna confondere i piani, perché quando si dice che questi movimenti sono contro la classe politica, la classe politica si dovrebbe interrogare anche perché queste persone ce l'hanno con questa classe politica. Picasso davanti al Guernica disse: Guernica l'avete fatto voi, non l'ho fatto io. E questo è il frutto del mal operato della classe politica finora. Questo deve essere sottolineato, che poi uno ovviamente lo vuole convogliare in una forza democratica come appunto può essere il Movimento 5 Stelle, che in maniera pacifica cerca all'interno, tant'è vero che noi siamo aggrediti dagli altri deputati, degli altri gruppi politici, quando anche pacificamente esprimiamo le nostre opinioni all'interno della Camera. Loro ci aggrediscono, ci sono i filmati. Però l'aggressione, la violenza parte da chi ha condotto questo paese in queste condizioni e costringe anche un imprenditore per bene magari ad occupare una rotonda. Ovviamente, le ripeto, qualunque forma di violenza per noi è assolutamente è chiarissimo, Carla Ruocco. Stefano Folli, ti faccio un'ultima domanda, perché poi dopo ritorno con questo tema su altri ospiti, con alcuni manifestanti, eccetera. E secondo te questo schieramento trasversale tra PD, SEL e Movimento 5 Stelle per portare, come poi è successo, la discussione della legge elettorale dal Senato alla Camera, può essere letto, come l'ha letto forse qualche berlusconiano, come uno schiaffo di Renzi ad Alfano? Quindi Renzi, da quando è segretario, ha dato un'accelerata e Alfano può avere paura a questo punto di quali siano le vere intenzioni del neosegretario del PD, no? Sulle alleanze, tutto quello che diciamo porta a discutere la legge elettorale fuori dai confini della maggioranza in prima battuta, perché è chiaro che bisognerà discuterla comunque con tutte le forze presenti in Parlamento, ma tutto quello che sottovaluta un accordo preliminare tra le forze della maggioranza desta i sospetti della forza più debole di questa maggioranza, che è il gruppo del nuovo centrodestra di Alfano, e quindi naturalmente suscita delle rimostranze. Renzi dovrà conciliare l'esigenza comunque di non scardinare la maggioranza con poi la sua personale volontà di arrivare a una legge elettorale che garantisca una qualche forma di bipolarismo, e quindi una legge che va anche un po' a scontentare i partiti centristi, o comunque che richiede quantomeno la ricerca di il tentativo di trovare un consenso anche al di fuori dei confini della maggioranza. Grazie Stefano Folli. Prego, ciao. E dicevo, quindi il tema, quello di queste manifestazioni che insomma sono veramente sparpagliate in giro per l'Italia con varie anime, come abbiamo già visto e ripetuto in questi giorni, Ventimiglia con la frontiera bloccata, oggi tafferugli con le forze dell'ordine, poi a Milano continua il presidio del movimento dei Forconi a Piazzale Loreto, dove ieri ci sono stati anche le tafferugli, gli scontri, oggi vi dicevo a Roma alla Sapienza e con i ragazzi che hanno sfondato le transenne, gli studenti, e lanciato bombe carta alle cariche della polizia, insomma, e poi anche a Palermo c'è stato uno sventolio di mutande davanti a Riscossione Sicilia, sventolando mutande e appendendole sugli alberi al grido "siamo rimasti in mutandi, prendetevi anche questi". Insomma, sicuramente un disagio sociale molto diffuso, ma quali sono un po' i contorni per definire quello che sta avvenendo, questa grande, questo ribollimento di proteste? Maurizio Fiasco, sociologo, esperto di sicurezza pubblica e formatore delle forze di polizia. Come la legge, Fiasco? Buonasera. Buonasera. Beh, intanto c'è un marchio che fa da collante dentro il quale, con il quale si collegano, scusi il bisticcio, tante espressioni. Il marchio è molto efficace perché questo dei Forconi è un'espressione fuori dal lessico della politica e quindi si stacca bene sui media, eccetera. E questo è il primo tratto. E poi vi è l'altra cosa da constatare, come possiamo dire, una spirale di rinforzo che si avvantaggia anche dell'imperizia sul piano comunicativo della politica ufficiale. Per capirsi, da una parte c'è un deficit serio di empatia, cioè di capacità di sentire il rancore profondo che c'è in strati della società che non hanno possibilità di accedere a dei canali espressivi da parte della politica ufficiale, e dall'altra parte c'è appunto questo marchio che sembra attrarre, collegare tante diverse espressioni. Poi c'è naturalmente il ceto politico della protesta, perché non ci dobbiamo mai dimenticare che quantunque attempati, quantunque nuove reclute, beh, c'è sempre un'expertise, una capacità di un ambiente di saper fare nelle situazioni, quindi saper forzare il blocco, saper trasformare una protesta, un risentimento in qualcosa che si indirizza contro un bersaglio a sua volta divenuto simbolo e quindi che fornisce un messaggio di rinforzo al movimento stesso. Insomma, dobbiamo sempre distinguere il sentimento profondo di rancore che lievita ed è molto diffuso, e anche dall'operazione di marketing che si fa sopra questo sentimento. E secondo lei, Fiasco, chi è che la sta facendo questa operazione di marketing? Questo è interessante perché ci sono i cascami del movimentismo radicale di destra e di sinistra che vi si trovano, cioè tutti coloro che non si sono integrati in questi anni, che la politica ufficiale non è integrata e che comunque si spostano, vanno a sentire i fermenti, si presentano dentro, hanno per così dire una technicality, cioè una capacità tecnica. Che aspettano insomma che si accenda il cerino. Ma c'è Christian Rota, sì. In linea, che è uno dei rappresentanti del coordinamento nazionale 9 dicembre a Torino. Christian Rota, condivide questa analisi? No, cioè diciamo che qua cose di estremismo, cioè dalla nostra parte non c'è niente, anzi stiamo prendendo sempre le distanze da queste cose perché non ci piacciono. Cioè, noi siamo un movimento di popolo, di ragazzi, che poi magari dentro ci sarà anche qualcuno con ideali di destra, qualcuno con ideali di sinistra. La cosa buona è che qua ci siamo riuniti tutti quanti senza bandiere, senza ideali. Qua stiamo combattendo contro una politica che non ci rappresenta e che ci sta portando sempre di più alla fame. Il discorso è questo: stiamo autofinanziando, non abbiamo partiti dietro, quello che stiamo creando tra di noi, normalissimi cittadini e ragazzi. Siamo partiti che eravamo in tre ragazzi che ci siamo presi questa responsabilità, e man mano che andiamo avanti stiamo prendendo sempre tutto il senso. Quindi questi discorsi di estremismo, di destra, di sinistra, cioè si sono trovati nelle piazze dove c'era sia da una parte che dall'altra, non è questo discorso è proprio una cosa confronto generale. Adesso leggo alcuni messaggi che stanno arrivando sulla pagina Facebook di Effetto Notte. Per esempio Emanuela scrive: io ero in Piazza Loreto a Milano fino a poco fa, ma non con l'intento di sostenere la protesta, ma con dei figli e una penna per prendere appunti. In piazza ho visto ogni colore, l'unica cosa di cui sono certa, da una persona con idea politica definita, dice che la sinistra non è stata capace di parlare a una grossa fetta di popolazione che alla fine si è organizzata da sola arrabattando qua e là, questo almeno per quanto riguarda Milano. Poi dice Riccardo: sono un autotrasportatore, ho capito che noi italiani in quanto a coerenza civica non siamo migliori, pretendiamo il rispetto delle leggi e delle normative, ma siamo i primi a disattenderle. In questa protesta, dice, tanti si nascondono dietro i leader che non propongono alternative valide se non quelle delle elezioni che vorremmo tutti nei tempi e nei modi giusti e opportuni. Che alternative, Christian Rota, proponete voi? Le alternative, cioè, non è che noi proponiamo alternative, cioè noi non cerchiamo di mettere nessuno a guerra come tanti pensano e come tanti hanno fatto fino adesso. Noi sta solo chiedendo di poter eleggere un governo che ci rappresenta, perché fino adesso questi governi che ci sono adesso non li abbiamo rappresentati noi, cioè non ci hanno chiesto mai niente. E lei chi voterebbe? Rota, chi le piace? Chi voterebbe? Chi pensa che possa fare una politica diversa? Perché in questo momento nessuno ci rappresenta, nessuno ci aiuta, nessuno fa un lavoro che ci dia una mano a noi, stanno solo pensando a loro stessi. Io non metterei nessuno adesso come adesso. Non c'è nessun parlamentare, nessun politico che ci può rappresentare e che dimostri di fare quello che fa per noi. Gianfranco scrive: poche idee ma confuse. Francesca Ida: c'è qualcuno che si sta incazzando sul serio. Su questo è chiaro, Maurizio Fiasco, no? Sì, ma il nostro interlocutore, il rappresentante del movimento, segue un canone espressivo, segue un'argomentazione, segue anche lui una sua retorica, è un format le cose che ci dice. Cioè lui sicuramente un'esperienza politica ce l'ha, o comunque una mediazione politica ce l'ha in testa, perché i nodi che lui attraversa in questa sua esposizione, non c'è nessuno che ci rappresenta, la politica, il governo, non sono espressioni spontanee del protestatario che arriva in piazza e non c'è mai stato prima, spinto da un disagio vero. Come anche alcuni dei messaggi hanno sullo sfondo una retorica del linguaggio politico che può essere anche assumere toni popolareschi, ma sono sempre la mediazione di chi sa cosa significa fare politica. Quindi probabilmente, Maurizio Fiasco, è vero che ci può essere strumentalizzazione, però è chiaro che diciamo si è agganciata su un malcontento, però molto molto diffuso, altrimenti non avrebbe trovato humus, no? Leggo ancora qualche messaggio. C'è Mario che dice: questo movimento è fuori dal mondo alle ore contate. E Ramona dice: ho compreso il disagio di molti che protestano legittimamente le loro istanze, ma la disorganizzazione porta a disagi per tutti. Cristian Rota, mi dica solo brevemente domani che intenzioni avete? Ma adesso ci stiamo radunando in piazza Parco Ruffini, perché comunque a Torino? Sì, a Torino. Stiamo facendo all'esterno un campo base dove riunire tutta la gente, organizzarci un attimo, perché giustamente adesso ci siamo fatti sentire, adesso ci dobbiamo andare a far vedere a Roma, perché comunque è inutile metterci la zappa tra i piedi, voglio dire, dobbiamo andare a Roma e fare direttamente con gli interessati. Adesso quello che dobbiamo fare l'abbiamo fatto, ci siamo fatti conoscere, vi siete fatti sentire. Però Christian Rota, se posso permettermi, insomma, se andate a Roma, naturalmente andateci pacificamente, ma con degli obiettivi e con delle richieste ben precise, altrimenti c'è molta confusione e non si capisce esattamente che cosa, su cosa volete che si intervenga. Comunque intanto la ringrazio e poi ci risentiamo magari se è disponibile. Grazie Christian Rota e grazie Maurizio Fiasco. Grazie. Grazie. Buona serata. Anche qui il tema l'avevamo un pochino sfiorato parlando con Forza Italia e Movimento 5 Stelle, perché avevano trovato una convergenza su un emendamento della legge di stabilità che però poi era stato comunque respinto, e da lì è nata tutta questa analisi sullo scenario che almeno oggi si è costituito. Poi probabilmente, come diceva Stefano Folli, la dialettica politica funziona così, cambieranno poi un po' le composizioni prossimamente. Però a proposito di legge di stabilità, c'è il collega del Sole 24 Ore, Alfredo Sessa. Ciao, benvenuto Alfredo. Ciao Roberta, buonasera a tutti gli ascoltatori. A proposito della manovra, no, che sta procedendo con l'approvazione dei vari emendamenti, novità di oggi sono: niente contanti per pagare gli affitti, una nuova sanatoria per il rientro dei capitali, poi si parla anche di pensioni. Ci spieghi due o tre aspetti? Sì, ecco, l'aspetto che hai citato, che riguarda lo stop all'utilizzo del contanto per i pagamenti degli affitti, è sicuramente una notizia che riguarda milioni di italiani. C'è da sottolineare sicuramente il fatto che questa misura, che è stata introdotta con un emendamento alla legge di stabilità, rappresenta una forma di lotta all'evasione fiscale, ma non solo. L'obiettivo di questa novità, il voler far pagare gli affitti esclusivamente con moneta elettronica rintracciabile, serve anche a garantire chi ha diritto poi ad agevolazioni di vario tipo di natura fiscale sulla gestione degli immobili. Anche se poi sarà un po' complicato forse controllare che ognuno lo paghi con la moneta elettronica e non passi delle banconote, no? Il pagamento dell'affitto, come sempre, diciamo queste cose. Sì, anche se ormai siamo abituati ad avere un occhio elettronico sulla nostra vita quotidiana in ogni fase della giornata, quindi come al solito queste novità iniziano piano piano, poi c'è una sorta di effetto palla di neve che comunque tutti noi auspichiamo. Perché diventa una valanga. Senti, invece su questo emendamento è stato proposto da SEL, è stato approvato, no ai nuovi F-35, no? Tante polemiche ha creato questa cosa e poi sembra che ci sia stato approvato questo emendamento. Tra l'altro su questo emendamento c'è stata una sorta di alleanza politica, ah, non un asse Forza Italia. Movimento 5 oggi, Stelle, sì. Quindi non è solo interessante dal punto di vista normativo, ma anche punto di vista esclusivamente politico. Per il rientro dei capitali invece che cosa è stato deciso? Ecco, per il rientro un'altra sanatoria. Per il rientro dei capitali si è deciso di seguire due binari paralleli. Ci sarà sia il binario che prevede l'adempimento volontario da parte di chi appunto farà rientrare i capitali, sia il binario dell'accordo internazionale, in particolare con la Svizzera, che è in corso di trattativa da tantissimo tempo, però insomma fa piccolissimi passi avanti. Prima o poi deciderà. Dovrebbe arrivare. Ti vedo con la bozza della prima pagina del Sole, c'è qualcosa in particolare che vuoi segnalare? Sicuramente, ci avviciniamo a questa fatidica scadenza del lunedì 16 dicembre dell'IMU, alcuni di noi l'hanno già pagata, hanno potuto notare insomma che l'esborso è stato notevole e non a caso noi sottolineiamo come le aliquote molto alte, al di sopra di quella che era l'aliquota ordinaria, coinvolgono purtroppo l'80% dei contribuenti che sono tenuti a pagare l'IMU. Si tratta, secondo una nostra valutazione, di almeno 12 milioni di proprietari di seconde case, negozi, capannoni, eccetera. Quindi insomma un impegno gravoso per tutti. È una barzelletta senza fine, insomma, questa dell'IMU, veramente. Senti, questi 30 secondi che ci rimangono, che cosa vuoi segnalare ancora, Alfredo? Sicuramente vorrei segnalare come la protesta dei Forconi, dopo aver bloccato alcuni assi stradali e ferroviari, adesso sembra risolversi in tante piccole scintille, quella, piccoli blocchi, piccole manifestazioni. E vedremo infatti, come diceva il manifestante, che cosa accadrà domani. Dobbiamo chiudere adesso, grazie Alfredo Sessa del Sole 24 Ore, buon lavoro domani per il Sole.